La ragazza da Favole di Jean de La Fontaine, tradotto da Emilio De Marchi, registrato per LibriVox.org da Paolo Fedi, agosto 2007, Roma. Una ragazza un poco superbiosa voleva marito a patto che fosse bello e giovane e ben fatto, non freddo, non geloso, notate bene questa circostanza, che non fosse scipito e avesse poi oltre i denari un gran di nobiltà. Gran Dio, come si fa, ditelo voi, a trovare queste mele sopra un ramo? Eppur a contentar le sue pretese la sorte fu cortese di mandarle partiti onesti e buoni. Ma lei, che si celia? Figurarsi se mi devo pigliare questi straccioni. Il fastidio non val d'incomodarsi, tutta gente pezzente, inconcludente, che mi ripugna e che mi fa pietà. Lo spirito non ha, l'altro non ha quel non so che di garbo e di finezza. E sprezza l'uno e sprezza quell'altro per il naso. Non c'è cosa sì bella e sì preziosa che possa contentar la schifiltosa. Dopo i partiti buoni si presentarono sposi più modesti, ma quella ancor, o sì, ch'io voglio a questi adesso l'uscio aprir di casa mia, chi pensa che io mi sia? Una donna in fastidio di me stessa, che di piangere la notte mai non cessa per la malinconia di dormir sola in letto? E superba, così del suo dispetto, vede passare intanto il suo bel tempo e diradar la schiera degli amanti. Un anno passa, un altro viene avanti. Oggi muore un sorriso e muore un gioco. Diman sloggia l'amore ed entra poco a poco in casa con rimorso anche il dolore. Cadono i vezzi e spiace quel volto che essa cerca inutilmente di rendere leggiadro, con cipre e con belletto, finché la cede inesorabilmente al tempo delle belle il più gran ladro. Se oggi mi crollo un muro, di rifarlo diman ancor procuro, ma né in parte rifar posso, né in tutto un bel volto che il tempo abbia distrutto. Madonna schifiltosa, che allo specchio più tardi si consiglia, cangia parere e piglia, dice, un marito. Piglialo, sussurra in un orecchio un certo desiderio, che parla anche alle donne schifiltose, ed ebbe in cortesia al destin rassegnata delle cose di trovare un babbeo come che sia. Fine della favola. La ragazza. Questa registrazione è di dominio pubblico.